qui tutti vanno veloce e parlano sottovoce, chiudono la serratura per non aver paura. Qui tutti sono sicuri che i tempi siano duri, tengono la porta chiusa e non chiedono mai scusa. Le macchine vanno via, si fermano solo a rosso. Io non ho fantasia, io faccio quel che posso. Mi tiro sulla sciarpa se c'è un po' di vento. La notte fa molto freddo, ma abbiamo il riscaldamento. A volte mi riprometto di non pensarci più. Mi faccio un caffè ristretto per tirarmi su. A volte la notte sogno che tu ritornerai in questa casa dove non hai vissuto mai. Ma i sogni non li ricordo, nemmeno se ci sei tu. Ora che vivo a Praga, io non ti aspetto più. Sono convinti di non essere contenti, hanno i capelli bianchi e curano gli ammanchi. E tutte le nostre amanti sono molto brillanti, amano un po' per gioco, amano pressa poco. Ci lasciano la mattina, ci lasciano il letto sfatto, ci lasciano in cucina discutere col gatto, mentre la radio dice un sacco di parole. Piove da 100 giorni, ma domani ci sarà il sole. L'inverno sta terminando e la guerra finirà. Ragazzi chiamati Corvo volano sulla città, su questa città dove non hai vissuto mai. A volte la notte sogno che tu ritornerai, ma i sogni non li ricordo, nemmeno se ci sei tu. Ora che vivo Praga, ora che vivo Praga, io non ti aspetto più.